da dimenticare. Perché è troppo breve, allora più si ragiona e meno si capisce, come il cielo con tutte quelle stelle, più si guarda e più si vede. Vedere e sentire, non toccare e provare.